Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Scaduti ieri i termini per la presentazione delle liste dei candidati in lizza per le elezioni del Parlamento europeo dell'8 e 9 giugno. Sono 17 quelle che hanno depositato le carte per concorrere, ma non tutte avranno via libera. La Corte d'Appello di Venezia sta ultimando in queste ore la verifica della documentazione necessaria. Incendio nella notte in una palazzina residenziale, un intossicato abegliano in comune di San Canzian di Sonzo. Le fiamme si sarebbero propagate dalla cucina di un'abitazione. Due residenti inizialmente evacuati sono rientrati nei loro alloggi. In un periodo storico particolarmente complicato per il Medio Oriente, l'Università di Trieste ha avviato l'anno scorso un corso opzionale di dialogo interreligioso tra le tre grandi religioni monoteiste, cristianesimo, ebraismo e islam. Iniziata questa mattina a Udine la demolizione di due edifici nel quartiere di San Domenico nell'ambito del recupero urbanistico della zona. A Trieste è presentata una realtà civica composta da diverse anime e comitati che intendono proporre la loro visione strategica per il futuro della città. I giovani e l'Europa, il tema al centro di un convegno organizzato a Pordenone con la partecipazione di studenti a confronto con esperti. Trieste ricorda oggi il 50° anniversario della morte dello storico Diego De Enriquez con un open day a lui dedicato al Civico Museo della Guerra per la Pace, in cui si racconta la genesi della collezione di oggetti raccolti dal ricercatore nel corso della sua vita e l'importanza storica dei suoi diari storici. Le 12:31 minuti e 45 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Lorenzo Gherlinzoni in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 2 maggio. La Corte d'Appello di Venezia sta ultimando proprio in queste ore la verifica della documentazione necessaria per partecipare alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Scadeva ieri infatti il termine per la presentazione delle liste dei candidati. Sono 17 quelle che hanno depositato le carte per poter concorrere, ma non tutte avranno il via libera. Già tre sono state ricusate per irregolarità, come il mancato raggiungimento del numero minimo di firme. Italia dei Diritti, Unione Cattolica Italiana e Partito Animalista fanno sapere dalla Corte d'Appello Veneta. La verifica è in corso per altre liste. Il Friuli Venezia Giulia, lo ricordiamo, è compreso nella circoscrizione nord-est, che eleggerà al Parlamento europeo 15 deputati attraverso il sistema delle circoscrizioni. Quella del nord-est include Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Dalle prime informazioni arrivate anche dai partiti, non ci dovrebbe essere alcun capolista della nostra regione. La cronaca, un incendio si è sviluppato ieri sera poco prima delle ore 23 in un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina residenziale in via Carducci a Begliano, frazione del comune di San Canzian di Sonzo. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del comando di Gorizia con la squadra e l'autobotte del distaccamento di Monfalcone, supportate da un'ulteriore autobotte e dal funzionario di guardia della sede centrale del capoluogo Isontino. All'arrivo i soccorritori hanno trovato un uomo che al momento dell'incendio si trovava nell'appartamento già in strada. Sono quindi saliti nello stabile dove hanno proceduto a evacuare gli unici due inquilini presenti in quel momento. A domare le fiamme, quindi a mettere in sicurezza l'alloggio interessato dall'incendio, dichiarato inagibile. Si è quindi provveduto all'evacuazione dei fumi e a un controllo strumentale per verificare che nella palazzina non vi fossero residui dei gas prodotti dalla combustione e l'aria fosse respirabile. Al termine delle operazioni, due inquilini che erano stati temporaneamente evacuati hanno potuto rientrare nei propri alloggi. Un'altra persona è stata portata in ospedale per intossicazione. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo. Sul posto, per quanto di competenza, la Polizia di Stato. Il personale della Polizia di Stato della Questura di Udine ha arrestato in via Parini un cittadino pakistano 37enne senza fissa dimora per detenzione e spaccio illegale di sostanze stupefacenti, mentre stava cedendo un quantitativo di droga a un connazionale, peraltro gravato dal divieto di ritorno nel comune. Addosso gli sono stati trovati 10 involucri di cocaina pronti per essere venduti, un pezzo d'hashish e la somma di 725 euro. Pochi giorni prima, poco distante, nei pressi di uno stabile abbandonato, i poliziotti della squadra mobile avevano sorpreso altri due stranieri in possesso di stupefacente che cercavano inutilmente di gettare. I due, un cittadino afghano 26enne ed un pakistano 24enne, alla vista degli agenti si erano liberati di diversi pezzi di hashish per un totale di quasi 20 grammi, di 4 involucri di cocaina ed una mazzetta di banconote, probabile provento dell'illecita attività di spaccio, per un totale di quasi 5.000 euro. Sono stati tutti denunciati in stato di libertà con il relativo sequestro dello stupefacente. Salute, cibo, green e digitale, le aree di interesse dei nuovi corsi di laurea che saranno attivati il prossimo anno accademico dagli Atenei di Trieste e di Udine, che hanno appena ricevuto il via libera dal Consiglio Universitario Nazionale. Più attenzione alle sedi decentrate. E Pordenone ad aggiudicarsi due dei cinque nuovi corsi di laurea proposti dagli Atenei di Trieste e Udine, che hanno ottenuto l'ok del Consiglio Universitario Nazionale, che partiranno il prossimo anno accademico. Salute, cibo, green, digitale, le aree di interesse. Nel capoluogo della Destra Tagliamento, l'Università di Trieste attiverà il primo corso di laurea in dietistica della regione, mentre l'Ateneo di Udine aprirà quello in ingegneria industriale per l'energia. Entrambi i corsi sono triennali e puntano ad anticipare le esigenze espresse dal territorio, oltre che da aumentare l'attrattività dei due atenei, spiegano i rettori. A far partire il corso di laurea in dietistica è stata infatti la grande richiesta dal sistema sanitario di operatori del settore, afferma il rettore dell'Ateneo Giuliano di Lenarda, con l'auspicio che questo possa essere anche un modo per trattenere i neolaureati in regione. Risponde invece alle esigenze rappresentate dal mondo produttivo il nuovo corso di laurea in ingegneria industriale per l'energia, puntato sugli aspetti della sostenibilità e transizione energetica. L'Ateneo di Udine ci ha investito molto, assegnandogli sei nuovi docenti, spiega il rettore di Udine Pinton. Seguono lo stesso filone, con attenzione anche al digitale, i due nuovi corsi di laurea magistrale in lingua inglese che saranno attivati a Trieste dai dipartimenti di ingegneria ed architettura e di scienze politiche e sociali, quest'ultimo con uno sguardo europeo. Infine a Udine partirà il nuovo corso di laurea magistrale in scienze ed economia del cibo, nato sulla spinta degli studenti di quello triennale inaugurato già 4 anni fa, rimarca il rettore Pinton, ma anche delle aziende del distretto del cibo, sempre più alla ricerca di competenze di settore di alto profilo. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate poco fa: a Trieste 18 gradi, a Gorizia 17, a Udine e Pordenone 16 gradi, a Tolmezzo 11 gradi 5 decimi, a Tarvisio 10 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 8 gradi e mezzo, a Piancavallo 7 gradi e 5 decimi, a Sappada 6 gradi. Sul Monte Lussari, sullo Zoncolan 2 gradi e 5 decimi, passando alla costa, a Lignano ci sono 18 gradi, a Grado 17 e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per le prossime ore. Cielo coperto con precipitazioni intense in Carnia, sulle Prealpi e in pianura, anche temporalesche generalmente abbondanti sulle Alpi, con quota neve in calo fino a 1800 metri circa. Sulla costa piogge più moderate con possibili schiarite, vento moderato da sud sulla costa e in quota, con raffiche anche sostenute sulla costa. Domani cielo in prevalenza coperto con qualche schiarita sulla costa, dalle ore centrali probabili precipitazioni sparse, in genere deboli o moderate, quota neve tra i 1.600 e i 1.800 metri circa. In arrivo dalla regione 900.000 euro per l'attività di prevenzione degli incendi boschivi. Lo stabilisce una delibera della giunta regionale proposta dall'assessore alle risorse ittiche, agroalimentari e forestali Stefano Zanier, che assegna i fondi a un bando per la concessione di contributi ad hoc. Il bando, di portata più ampia rispetto al precedente del 2023, finanzia interventi di prevenzione in tutte le aree del territorio regionale considerate ad alta e media pericolosità dalla carta della pericolosità degli incendi boschivi, e prevede come ammissibili, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale di accesso alle foreste, anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di fasce di protezione nelle aree di interfaccia, l'individuazione delle quali è stata fatta di concerto con la Protezione Civile regionale. In un periodo storico particolarmente complicato per il Medio Oriente, l'Università di Trieste ha avviato l'anno scorso un corso opzionale di dialogo interreligioso tra le tre grandi religioni monoteiste, cristianesimo, ebraismo e islam. E proprio con le tensioni dopo il 7 ottobre, un corso così può essere importante, lo ha spiegato nel corso di Buongiorno Regione il professor Fulvio Longato, coordinatore del corso di laurea in discipline storiche e filosofiche. L'insegnamento di storia delle religioni è uno dei quasi 60 insegnamenti del laurea triennale di discipline storiche e filosofiche. Storia delle religioni al secondo anno, e quest'anno si sono iscritti, essendo un insegnamento opzionale, una cinquantina di studenti, il che significa grosso modo un terzo di tutti gli iscritti al secondo anno di discipline storiche e filosofiche. Questo insegnamento in particolare penso anzi possa contribuire proprio con l'apporto di conoscenza e di confronto possa contribuire in senso positivo a una situazione non divisiva, ma appunto di confronto, di dialogo. Certamente il conflitto, anche da un punto di vista teorico, va affrontato, ma soprattutto non vanno polarizzate le posizioni. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Romano Prodi sarà a Gorizia l'8 maggio prossimo in occasione di un incontro organizzato dall'Unione Economica Culturale Slovena e il gruppo I Visionari nell'ambito del programma dedicato ai 20 anni dall'ingresso della Slovenia in Europa il 1 maggio del 2004. L'ex Presidente del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea presenterà alla sala incontro a San Rocco il libro postumo del giornalista Demetrio Volcic A cavallo del muro. Prodi era stato a Gorizia poco più di un anno fa, ospite dell'Università di Trieste, insieme con l'ex Presidente sloveno Danilo Turk a un incontro sull'Unione Europea. Questa mattina in Largo Barriera a Trieste c'è stata la presentazione di una realtà civica composta da diverse anime e comitati che intendono proporre la loro visione strategica per il futuro della città. Dalla contestata ovovia alla difesa della pineta di Cattinara, dalla valorizzazione del giardino di San Michele alla questione dei consultori familiari dimezzati, al contestato spostamento del Burlo. E poi c'è la questione della cementificazione di San Giacomo, San Giovanni e della Maddalena. 11 comitati cittadini fanno squadra e si uniscono in una rete e lanciano la manifestazione che si terrà a Trieste sabato 4 maggio in Largo Barriera dalle 9 alle 13. Noi siamo con Federico Zadnic della rete dei comitati di Trieste, che ha appena presentato questa iniziativa, e le chiedo: che cosa vi accomuna? Siete in 11 comitati della città. Ci accomuna l'amore per la nostra città e la voglia che le trasformazioni e le decisioni che riguardano i nostri quartieri vengano fatte, prese, ascoltando chi i quartieri li vive. E ci accomuna una visione ambientale e sociale. Vogliamo una città a misura di persona, vogliamo che le comunità restino coese con spazi urbani di qualità. Tante le firme raccolte in tanti settori, pensiamo alle 10.000 firme raccolte perché non venga abbattuta la pineta di Cattinara, 10.000 firme per la sanità pubblica, tantissime firme contro l'ovovia, ma poi tutte queste petizioni dove vanno? Purtroppo il prolificare di questi comitati nasce dal fatto che chi amministra la città lo fa in maniera molto arrogante, senza ascoltare chi vive i quartieri, ed è per questo che abbiamo deciso di mettersi in rete per essere ancora più forti e far sentire più forte in alto la nostra voce e le nostre richieste. Non può anche sembrare che voi siate delle persone contro, sa, il fenomeno cosiddetto NIMBY, not in my backyard, quindi non nel mio quartiere? Assolutamente no, noi facciamo delle proposte, chiediamo spazi urbani di qualità, giardini, sanità territoriale, difesa della salute pubblica, città a misura di persone. Noi abbiamo molti pro e tra l'altro chiediamo metodi di gestione del bene comune partecipato, come il budget partecipativo, di cui parleremo sabato con un esperto in piazza Largo Barriera. Trieste, Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio a Udine in Consiglio Comunale si parlerà in un incontro pubblico dell'eliminazione dei 5 passaggi a livello che tagliano in due la città, alla presenza dell'assessore regionale, assessore alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante e del consigliere comunale Matteo Mansi, che da oltre 10 anni ha fondato il comitato per l'eliminazione dei passaggi a livello e al quale è stato affidato l'incarico di occuparsi della riqualificazione della tratta ferroviaria Udine-Tarvisio. Intanto, sempre a Udine, questa mattina è iniziata la demolizione di 2 edifici nel quartiere di San Domenico nell'ambito del recupero urbanistico della zona. Iniziati i lavori di demolizione di 2 delle 8 palazzine del progetto di rigenerazione urbana Pinqua nel quartiere San Domenico, un lavoro lungo e difficile a causa della presenza di amianto. Contemporaneamente alla demolizione delle 2 palazzine cominceranno i lavori su infissi, grondaie e serramenti ed elementi di facciata delle altre 6 palazzine, un importo totale di quasi 13 milioni di euro per la costruzione di un fabbricato a ferro di cavallo di 84 alloggi, più cantine e aree commerciali. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. In alcune giornate del mese di maggio, alcuni velivoli non in forza al 31° Fighter Wings della base USAF di Aviano effettueranno per addestramento alcuni voli notturni di collegamento e trasporto logistico che potrebbero protrarsi oltre i consueti orari di apertura dell'aeroporto. L'attività è stata coordinata e approvata dall'Aeronautica Militare, che è responsabile dello spazio aereo, ed è finalizzata a garantire il mantenimento degli obiettivi addestrativi dei piloti e del personale di supporto. Lo afferma una nota congiunta del Comando Aeroporto di Aviano, del 31esimo Fighter Wings, che adotteranno tutte le procedure necessarie, è detto in una nota, per minimizzare il più possibile gli eventuali disagi alla cittadinanza. I giovani e l'Europa, è questo il tema al centro di un dibattito organizzato a Pordenone con la partecipazione di studenti ed esperti. I giovani, una fetta importante dei 359 milioni di elettori che tra il 6 e il 9 giugno saranno chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento europeo. L'astensionismo, l'ostacolo più temuto. Ingiustizia sociale e climatica, i temi del dibattito con gli studenti presenti all'Auditorium Concordia di Pordenone, promosso da ACLI, Caritas Diocesana, Istituto Regionale Studi Europei, MOVI e Commissione Pastorale Sociale, per creare interesse e accendere il dibattito. Dino Del Savio, presidente MOVI FVG. Siamo informati, bisogna essere informati, bisogna discutere, bisogna coinvolgere prima di passare al voto e decidere che cosa. Bene, questa è stata la proposta. La scuola ha accettato, tanto che qui ci sono tutte le quinte, quindi coloro che già sono maggiorenni e andranno a votare o coloro che si preparano ad andare a votare. Il forum Disuguaglianze e Diversità, grazie al confronto con Fabrizio Barca, economista ed ex ministro nel governo Monti, vuole stimolare su politiche pubbliche e azioni collettive. Secondo me, nella sensibilizzazione dei ragazzi anche a acquisire una maggiore consapevolezza, soprattutto perché è l'anno in cui noi inizieremo anche a votare, e in questo secondo me è importante il ruolo appunto della scuola, che quindi faccia da mediatore per questo compito. Zoran, climatologia, se ne parla abbastanza, si fa abbastanza per l'impatto climatico a livello europeo? Secondo me abbastanza, questa qui è una parola sicuramente giusta, però ci dovrebbe essere una maggiore spinta, secondo me. Almeno io avverto che l'Europa si sta muovendo, ma ci dovrebbe essere una spinta più decisa da parte dei nostri rappresentati. In serata l'incontro dibattito aperto alla cittadinanza alle 19 nell'auditorium della Casa dello Studente Zanussi. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E Nicola Martelli, il nuovo presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Martelli, 45 anni, amministratore delegato di un'importante azienda del settore e del territorio, è stato eletto nel corso della prima seduta della rinnovata assemblea del Consorzio e succede nella carica di presidente a Giuseppe Villani, presidente dal 2015. Nella settimana che porterà domenica il clou con la disputa della manifestazione podistica Trieste Spring Run, oggi si è disputata in Piazza Unità d'Italia la Trieste Spring Young, gara riservata agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle primarie triestine, che ha visto la partecipazione di 1500 bambini. A seguire i volontari del Dinamo Camp, partner della manifestazione, insieme alla Onlus Bambini del Danubio, hanno presentato le proprie attività. Nel pomeriggio alle 18 partirà il percorso di Urban Nordic Walking. Trieste ricorda oggi il 50esimo anniversario della morte dello storico Diego De Enriquez, con un open day a lui dedicato al Civico Museo della Guerra per la Pace, in cui si racconta la genesi della collezione di oggetti raccolti dal ricercatore nel corso della sua vita e l'importanza storica dei suoi diari. Sentiamo. Riscoprire in parole, musica e danza la lungimirante lezione di pace impartita da Diego De Enriquez, fondatore del Museo della Guerra per la Pace in via dei Tomins a Trieste. In occasione del 50esimo anniversario della sua morte, il museo propone un open day gratuito, si chiama D-Day for Peace. Diego De Enriquez morì il 2 maggio del 1974 e fu uno studioso e collezionista di cimeli bellici. Ha cominciato ad accumularli già durante la Seconda Guerra Mondiale, per questo fu autorizzato a muoversi in tutta la regione militare del Nord-Est. Ha documentato le sue giornate di lavoro scrivendo 50.000 pagine di diario, che è diventato poi fonte inestimabile di prima mano per comprendere la situazione storica che si sviluppava intorno a lui. Stamane al museo alle 11 è stata inaugurata la mostra Le parole di Diego, allestimento espositivo nella sala mostra al primo piano del museo, realizzato con la collaborazione della RAI, sede regionale per il Friuli Venezia Giulia, in cui si racconta la genesi della collezione di Enriquez. L'attuale percorso espositivo nel museo è dedicato alla Grande Guerra. Le ultime sezioni invece anticipano alcuni temi del nuovo allestimento in corso, dall'avvento del fascismo alla Seconda Guerra Mondiale. Nell'ambito del D-Day for Peace, questo pomeriggio si svolgeranno tre repliche di Dancing for Peace, la danza tra i cannoni, uno spettacolo di grande impatto emotivo già proposto con grande successo al pubblico scolastico, che vede uniti il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e la compagnia Area Rea. La partecipazione agli spettacoli, così come a tutti gli eventi della giornata, è gratuita. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. E Trieste è una città nota per essere un crocevia di culture, alla pluralità intellettuale e congiunta anche quella religiosa, con la presenza di più confessioni ed edifici di culto eretti poco lontani gli uni dagli altri. Il fotografo triestino Gabriele Crozzoli ha ora pubblicato un libro di immagini in cui sono ritratti tanti mondi spirituali che convivono in pace nel capoluogo giuliano. È un viaggio anche in luoghi inaccessibili, quello proposto dal libro fotografico Trieste Mistica, firmato dal fotografo Giuliano Gabriele Crozzoli, e in cui sono ritratte le 5 comunità religiose del capoluogo regionale, con i loro riti, le ricorrenze, le tradizioni e soprattutto i fedeli e i ministri del culto. 120 le immagini a colori incluse nel volume, a fronte di un anno di lavoro per seguire i vari momenti di festa disseminati in date diverse nel corso del calendario cristiano cattolico, orientale oppure occidentale e ancora protestante oppure ebraico, e che è stato preceduto da 6 mesi di lavoro preparatorio per verificare la possibilità di realizzazione di un reportage in cui raccontare ciò che è intangibile, cioè la dimensione del sacro. Un progetto che per Crozzoli è nato girovagando in città con il giovanissimo figlio e riscoprendo così la magia e la meraviglia di luoghi non frequentati da tempo, filtrandoli con la curiosità di chi ha poche primavere ed è ancora immune da pregiudizi. Io mi sono entusiasmato di fronte alle bellezze architettoniche che questi contenitori, queste chiese, questi edifici, queste opere d'arte rappresentano. Da lì è nata un'esplorazione che è sfociata in una specie di nuova scoperta della città, vista secondo la particolare angolazione di chi crede in una presenza superiore. Il contatto poi con i referenti spirituali delle varie chiese che mi hanno educato e insegnato a capire meglio quelle che sono le ritualità e anche i valori non solo religiosi ma soprattutto comunitari, perché queste sono comunità religiose ma sono comunità anche proprio etniche e linguistiche, tant'è che le varie comunità insegnano le loro lingue e che sono corsi aperti tra l'altro a tutta la cittadinanza, quindi ho imparato a vedere una Trieste molto più aperta di quanto non potessi immaginare. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport calcio. L'Udinese comunica che il portiere Marco Silvestri ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l'entità della lesione e i tempi di recupero. Siamo agli spettacoli. Ultimo giorno oggi del Far East Film Festival a Udine. Questa sera salirà sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine il regista cinese Zhang Yimou per ricevere il gelso d'oro alla carriera. Si tratta di una vera e propria leggenda del cinema asiatico, un autore che ha collezionato 2 leoni al Festival di Venezia, un orso a Berlino, un Grand Prix a Cannes e 3 candidature agli Oscar. L'ultima giornata prevede anche la proiezione della cult comedy filippina Becky and Badette e l'anteprima mondiale del super action hongkongese Custom Frontline. Ezra in gabbia con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della proposta di prosa da oggi fino al 5 maggio. Si tratta di uno spettacolo basato sulle ossessioni, e quella per la giustizia, per la libertà, per l'usura che corrode il mondo, spiega il regista Leonardo Petrillo. Solo il silenzio finale definitivo apre la memoria finalmente alla danza della vita e gli restituisce dignità e libertà. Ezra in gabbia va in scena alla Sala Assicurazioni Generali alle 20:30. Altri appuntamenti in regione: all'Hotel Savoy Excelsior di Trieste alle 17:30, ultimo incontro del ciclo dei cenacoli dell'Associazione Museo del Caffè di Trieste, dedicato al tema genetica e caffè, dalla pianta al consumatore. Protagonista il professor Alberto Pallavicini, ordinario di genetica e coordinatore del laboratorio di genomica comparata e applicata presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste, che per l'occasione proporrà un focus specifico sulle sue ricerche e attività applicate, in particolare al settore caffeicolo. E le tradizioni musicali popolari italiane, dalle 18:30 alle 20 a Udine a Palazzo di Toppo Wasserman, saranno protagoniste della conferenza inaugurale del ciclo Dal locale al globale, dal Friuli al mondo, percorsi di ascolto tra le musiche di tradizione orale nell'ambito delle iniziative del progetto condiviso con la Fondazione Friuli. E alle 12:54 minuti si chiude qui questo secondo appuntamento con il giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Lorenzo Garinzoni e Giorgio Beers, che vi parla. Collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Grazie dell'attenzione, prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.